Quarta ed ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco dei Mexican Whiskey intitolato Into the Sun. Come si chiamava questa canzone? Electric City. Dopo questo disco, quali sono i nuovi obiettivi che attendono la band per il vostro futuro? Beh, i soliti, suonare tanto il più possibile in più posti ovviamente. E magari registrare un nuovo disco. Sì, beh, anche quello, però ci vogliono i piccioli. Diciamo che non è in cantiere a breve, ecco. No, non è a breve, diciamo che però una scaletta ce la siamo fatta. Quindi state scrivendo nuove canzoni. Sì, stiamo già lavorando a nuovi brani e niente, adesso vedremo se quest'inverno riusciremo a partorire il nuovo disco. Ora è il momento di quale canzone? Into the Sun. Il tempo scorre e noi ragazzi siamo in chiusura di puntata. Vi ricordo i contatti per le vostre segnalazioni. Scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo il sito www.radiorcs.it per info su Radio RCS e su Rock Legends, oltre che la possibilità di ascoltare la nostra radio anche in streaming. Un grazie ai Mexican Whiskey per la partecipazione, un augurio di pronto ritorno per la presentazione di un futuro CD e a voi la parola per i contatti web ed email per info sul vostro album e un calendario di live di prossimi appuntamenti. Il nostro sito www.myspace.com/tmvsrock. Per quel che riguarda live? Allora, per quello che riguarda live prossimi, allora domani, 1° maggio, saremo al festival che c'è al Sabotage di Vicenza, sarebbe l'Eiho Sabotage Go, ed è stato definito così, in realtà sarebbe l'Eiho Laghetto, quello che l'anno scorso è stato è stato fatto al laghetto a Cerea, esatto, con Broken Dolls, Postal Market Babies, Vessade, Maya Mountains. Saremo un 13 gruppi, quindi un bel bill. Un bel bill veramente, intervenite tutti. Poi abbiamo un 7 maggio, venerdì 7 maggio, che siamo a Country Star di Albignasego. È un festival organizzato da On Stage, si chiama On Stage Rock Night. Saremo insieme ad altri 4 gruppi. Il 21 di maggio saremo alla mitica sagra di Cavanella d'Adige. Siamo tra amici e mangeremo e berremo come dei pazzi. A fine, il 29 saremo ad un festival a Loreo, sempre in provincia di Rovigo. Poi a fine giugno saremo ad una festa della birra a Scardovari. Premetto che molto probabilmente a luglio organizzeremo un mega festone in spiaggia, cose da altri tempi, con probabilmente Broken Dolls e Vessade. Speriamo di riuscire a farlo e saremo davanti proprio a 20 metri dal mare, sulla sabbia. Si farà sto dove mega festone preciso? E si chiama Barricata la località. Provincia di Rovigo, Porto Tolle, Scardovari. Siamo proprio sul delta del Po. Vogliamo fare una cosa, una bella festa. Chi vuole ubriacarsi poi potrà dormire col sacco a pelo oppure anche senza niente, proprio in spiaggia. Brano per chiudere questa puntata. Down Again. Jean-Luc e Mexican Whiskey vi salutano. Noi ci risentiamo venerdì prossimo, quando dal Bresciano arriveranno i Divines, che presenteranno il disco Kill Me Martina. Ciao. Ciao. Ciao.